Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 8 settembre, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e bentornati su Liberi Dentro ed Eduradio TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla cura e conduzione di questo programma insieme ad Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno a tutti, ciao Caterina. Programma che, come sapete, fa da ponte tra carcere e città. Il cuore della nostra trasmissione nasce a Bologna, ma si rivolge a tutta la regione e alle carceri della regione Emilia-Romagna e ovviamente a tutti i cittadini liberi che ci ascoltavano ora Radio Città Fujiko, ma anche sull'Epida TV e Teletricolore. Parto oggi con la rassegna stampa, ma in cella non si sta davvero al fresco, e questo è il titolo tratto da Avvenire, un articolo a cura di Lucio Boldrin, che è cappellano alla Casa Circondariale Maschile Nuovo Complesso di Re Bibbia. E lui naturalmente dice: sento e leggo molte persone che si lamentano per il caldo estivo, abbiamo avuto un agosto veramente pazzesco per il caldo, lui dice anche io lo avverto naturalmente, però poi quando pensa alle persone detenute rinchiuse in una cella stretta smette di lamentarsi per l'afa. Si dice che in galera si stia al fresco, tra virgolette, ma non è affatto vero. In carcere forse anche per motivi strutturali, per colpa del ferro, del cemento, si soffre molto di più il caldo, non entra mai un alito di vento e in prigione non esiste una via di mezzo, o si muore di caldo oppure si muore di freddo in sostanza. Caterina, ma oltre ai problemi strutturali e ambientali, come influisce l'ambiente carcere sullo stato psicofisico delle persone? Allora, interessante questo articolo perché Lucio Boldrin ci dice, da conoscitore delle carceri, essendo cappellano, entrando tutti i giorni, che l'afa d'estate fa aumentare ovviamente i livelli di ansia ed angoscia. Le persone recluse dormono di meno, di notte, soffrono per la nostalgia, il desiderio di libertà che si fanno sempre più forti, e un po' tutto col caldo diventa più difficile, soprattutto nelle carceri che sono malate di un sovraffollamento cronico. Ma così allo stesso tempo anche la tutela della salute stessa diventa un'impresa molto ardua, anche per la promiscuità, gli ambienti fatiscenti che diventano tutti insieme una miscela veramente esplosiva. Dominano la scena detenuti stranieri, i tossicodipendenti, persone malate psichiatriche, quindi diventa fra questa babele di lingue, culture, religioni e costumi differenti, scoppiano anche un po' i caos di malumori e anche risse e mancate comunicazioni, diciamo. Non solo, alte temperature associate a elevati valori di umidità favoriscono la crescita di muffe e acari, si moltiplicano odori sgradevoli, per non parlare dei rischi di contagio. Nelle celle sovraffollate sono all'ordine del giorno, e non soltanto per il Covid, anche per tanti altri tipi di malattie e virus. In questa situazione veramente estrema saltano tutti gli schemi di trattamento, quelli volti pronto al recupero sociale dei detenuti. È così, Antonella, ma a saltare sono anche tutti gli schemi di controllo medico, a detta del cappellano. Il carcere, insomma, non riesce a realizzare il suo obiettivo istituzionale principale, cioè la rieducazione, ma, a detta di Boldrin, è un arido contenitore delle marginalità della società odierna. Fra proteste, scioperi, della fame, suicidi, gesti di autolesionismo, sono molto frequenti e sono tutti segnali di allarme. Infatti sono segnali d'allarme perché i detenuti chiedono di fatto attenzione, chiedono il rispetto delle elementari e basiche norme di diritto, ma di fronte a tutto ciò cosa si può fare? Allora, per cominciare si potrebbero realizzare luoghi di accoglienza per ospitare i nuovi giunti in carcere, soprattutto per la presa delle persone con disagio psichico, che non vanno mischiate tutte insieme alle altre perché ogni bisogno ha la sua specificità. Poi si dovrebbe organizzare all'interno del carcere un ambiente dedicato alla cura dei legami affettivi. Ricordo che il diritto, per esempio, alla sessualità nelle carceri è una questione molto seria, aperta ormai da 20 anni in Italia, che rimanda ai principi costituzionali su cui ci sono pronunce autorevoli sia a livello nazionale che europeo, e negli anni sono stati presentati vari progetti di legge per il diritto all'affettività e alla sessualità, che però sono stati sempre, diciamo, abbandonati. e nessuno ha mai avuto seguito. Gli Stati Generali dell'esecuzione penale organizzati nel 2015, proprio dopo che sono state fatte delle condanne da parte della Corte Europea dei Diritti Umani nei confronti dell'Italia, hanno esplicitamente proposto di introdurre un nuovo istituto giuridico, cioè quello dei colloqui intimi, ma anche questa cosa è stata accantonata. E adesso che cosa rimane? Con la legge 354, sempre dell'ordinamento penitenziario del 1975, quindi ancora datata, quello che rimane come diritto all'affettività sono i colloqui, le telefonate, i permessi, tutto questo almeno in teoria, chiaramente, quindi ancora troppo poco. Poi per finire, per concludere, sempre questo cappellano Boldrin aggiunge che bisognerebbe favorire l'inserimento dei detenuti tossicodipendenti in comunità terapeutiche e mettere la magistratura di sorveglianza nelle condizioni di valutare con maggiore appropriatezza la compatibilità o meno con il regime carcerario. Speriamo che sia così. Concludo con un brano di Zucchero, forse dedicato anche a questo tema dell'affettività, un overdose d'amore. Ci vediamo tra poco. Rieccoci, bentornati. Dopo il brano musicale siamo sempre in compagnia di Liberi Dentro e Duradio TV, ancora per questa mezz'ora insieme con voi. Antonella, andiamo in Brasile, raccontaci. Sì, oggi andiamo in Brasile perché hanno percorso 4.000 chilometri di sentieri d'acqua e di terriccio, in canoa, a piedi, in bus, e si sono lasciati alle spalle foreste d'alberi per inoltrarsi in una selva di asfalto e grattacielo. Non edifici qualunque, perché a Brasilia, che è il cuore pulsante del Brasile, appunto, si trovano i palazzi del potere. Chi è andato a fare questa escursione? Ci sono andati i volontari della Luta pela Vida, cioè gli indios, gli indigeni che a Brasilia cercano di ottenere un risultato dalla Corte Suprema. E Luta per la Vita è appunto Lotta per la Vita, la mobilitazione che nell'ultima settimana d'agosto ha coinvolto per una settimana tutti i popoli indigeni dell'Amazzonia brasiliana. Erano infatti tantissimi, circa 6.000, e con membri appartenenti a 170 tribù diverse che hanno marciato fin lì. E per l'Associazione dei Popoli Indigeni del Brasile, cioè la PIB, che coordina appunto la mobilitazione, si è trattato di una delle più importanti manifestazioni di indigeni mai organizzate in Brasile. E destinazione è appunto la Corte Suprema, che sta decidendo sulla costituzionalità del cosiddetto Marco Temporal, che riconosce come ereditate dagli antenati solo le terre che erano occupate dagli indigeni quando la Costituzione fu promulgata nel 1988. Poi c'è stata un'ampia partecipazione di rappresentanti della società civile, ambientalisti, difensori dei diritti umani, con l'idea di sviluppare un'analisi sui poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche sui poteri popolare e spirituale, perché nel Brasile attuale, dove la vita delle persone e la democrazia sono in serio pericolo, il potere popolare e quello spirituale possono alimentare la speranza del cambiamento. E quindi con questa marcia così esemplare, i leader indigeni che cosa chiedono in concreto? Guarda, hanno presentato alla Corte Suprema un manifesto firmato da 100.000 persone, tra intellettuali, artisti, religiosi, cittadini comuni, in cui viene considerato come incostituzionale questo marco temporale di cui abbiamo appena parlato, e denunciato l'interesse dei difensori dell'agrobusiness, dell'estrazione mineraria e dei tagli a legna alle loro riserve. In Brasile, infatti, sono circa 900.000 gli indigeni, cioè rappresentano lo 0,5% dei 212 milioni di abitanti del paese, e le loro terre coprono il 13% del territorio nazionale, giusto per dare un'idea numerica. E quali sarebbero, secondo te, le conseguenze se accettassero il marco temporale? Guarda, ti voglio dire quello che ha affermato Francisco Calizai. Se la Corte Suprema accetta il marco temporal, potrebbe legittimare la violenza contro le popolazioni indigene e esacerbare i conflitti nella foresta pluviale amazzonica e in altre regioni. Quindi è una cosa veramente molto molto pericolosa. E infatti un esito sfavorevole ai nativi farebbe crollare il sistema creato dalla Costituzione del 1988, che ha consentito agli indios di riottenere almeno una parte dei territori espropriati durante la colonizzazione e dall'ultima dittatura militare. E in oltre 33 anni, meno della metà dei quasi 1.300 appezzamenti rivendicati sono stati affidati in usufrutto permanente alla comunità originaria, per un totale di 117 milioni di ettari di foresta, cioè il 14% della superficie nazionale. Gli indigeni sono usufruttuari, cioè non sono proprietari, quindi non possono pertanto né vendere né affittare la terra, la gestiscono a beneficio loro e dell'umanità. Uno studio dell'ONU, pubblicato quest'anno, ha confermato che le aree sotto il controllo dei nativi sono quasi tre volte meno disboscate delle altre. Un fatto non da poco in un momento in cui la comunità internazionale è chiamata ad azioni urgenti contro il cambio climatico, al vertice di novembre a Glasgow, che praticamente ci sarà dal 1 al 12 novembre 2021. Noi chiaramente siamo con gli indigeni dell'Amazzonia, inutile dirlo. Antonella, restando con i Rolling Stones anche questa settimana, che cosa abbiamo? Abbiamo un'altra bellissima canzone del 1969 che è You Can't Always Get What You Want, e speriamo che invece loro riescano ad ottenere quello che vogliono. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was there. I said to him, you can't always get. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV e come sapete l'ospite adesso in seconda parte di puntata, questa volta è sempre Alessio Scandurra di Associazione Antigone, in particolare è coordinatore dell'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione. È l'associazione che dagli anni 90 si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Abbiamo visto con lui, abbiamo affrontato diversi temi, in particolare a partire dalla proposta che Antigone ha presentato alle istituzioni, al Consiglio dei Presidente del Consiglio Mario Draghi, alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e ai parlamentari della Commissione Giustizia di Camera e Senato per migliorare le carceri. Questa volta vediamo che cosa ci dice a proposito del tema della tutela della salute della persona detenuta, qual è la proposta. Il carcere è un luogo dove finiscono spesso persone che partono da una condizione di forte marginalità sociale, il che vuol dire anche di scarso accesso ai servizi di salute. E poi in carcere, come dire, è un ambiente a sua volta malsano, è un ambiente dove ci si muove poco, è un ambiente poco ventilato, eccetera, e tante patologie abbiamo, diciamo, ultimamente abbiamo ovviamente tutti in mente le malattie infettive, il Covid è l'ultimo caso, ma insomma c'è tutta la vicenda delle epatiti che hanno una diffusione in carcere incomparabile rispetto a quella che c'è fuori. E rispetto a questo, sono stati appunto il passaggio dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute della responsabilità della cura delle persone è stato un passaggio molto importante, perché oggi ha in carcere medici che hanno uno sguardo fresco, diciamo, esterno, non abituato alle bizzarrie della vita penitenziaria, che quindi cercano di applicare lo stesso metro e gli stessi criteri per il paziente detenuto come non si fa per il paziente libero. Per esempio, tanti procedimenti in cui noi siamo coinvolti mostrano però anche come questi medici si sentano anche un po' ospiti in casa altrui e quindi faticano a puntare i piedi, faticano a battere i pugni, faticano a denunciare quando vedono cose che... quindi da questo punto di vista la costruzione, diciamo, di questo ruolo di indipendenza andrebbe rafforzata, e questo lo si può fare anche a livello normativo, appunto dando una maggiore terzietà e una maggiore indipendenza al ruolo del medico, stabilendo più chiaramente, perché su tanti aspetti ancora non lo sono, i confini e le competenze di ciascuna professione dentro il carcere. Quindi anche quello è un tema su cui è possibile fare passi avanti da un punto di vista organizzativo, anche questo è un tema su cui è possibile fare passi avanti da un punto di vista telematico, informativo. Alcuni istituti oggi hanno la cartella clinica informatizzata del detenuto, che consente di, ogni volta che si sposta il detenuto da un istituto a un altro o da un istituto a una struttura sanitaria esterna, avere immediatamente accesso a tutte le informazioni sanitarie che lo riguardano. Quello che noi facciamo quando andiamo dal medico, ci portiamo dietro tutte le nostre carte. Il detenuto questo non lo può fare, perché generalmente quelle carte non ce l'ha, lui stanno in matricola. Allora il fatto che tutto questo si sposti velocemente sarebbe anche questo un grande passo in avanti. In generale tanti aspetti della professione medica oggi sono legati all'accesso ad internet, e quegli stessi medici quando vanno in carcere l'accesso a internet non ce l'hanno, e diventa macchinosissimo per loro fare cose che fuori con i pazienti non detenuti fanno con grande facilità. Quindi anche quello è un fronte su cui diciamo un cambiamento di paradigma anche tecnologico sarebbe molto importante. L'ultimo aspetto, anzi il penultimo, è quello della malattia mentale, perché delle volte nelle carceri sembra che chi è affetto da malattia mentale sia ancora più recluso rispetto a persone che, pur avendo la malattia mentale, vivono fuori dalle carceri, per esempio. E anche su questo cosa potremmo fare? Allora, quello che va, di cui bisogna prendere atto, ed è una cosa che diciamo che sta nei numeri, che è anche nota, è che la popolazione detenuta ha tassi di patologia, tassi di frequenza di patologie psichiatriche, anche qui incomparabili rispetto alla popolazione libera. E in tanti casi perché c'è una connessione proprio tra il reato, il comportamento deviante, la mancanza di autocontrollo e la presenza di patologie. In altri casi perché l'uso di droghe slatentizza magari patologie che sono presenti nella persona ma che in altre condizioni magari non sarebbero esplose. E spesso non stiamo parlando di casi in cui poi diciamo si arriva all'incapacità di intendere di volere, eccetera, per cui poi sono persone che hanno una condanna che vanno in carcere, ma si portano in carcere tutti questi problemi e se li portano in un ambiente poi a sua volta patogeno, ansiogeno, patogeno. E un terzo della popolazione detenuta assume psicofarmaci e non per gioco, ma perché c'è davvero, come dire, una grande presenza di detenuti con patologie serie e comunque l'ambiente è un ambiente poi a sua volta che genera tensioni e patologie. E tutto questo sicuramente allo stato attuale non è supportato da una presenza sufficiente di personale medico, di personale sanitario in grado di farsi carico di tutto questo. Questo ce lo dicono dappertutto. Ci mandano queste persone con patologie gravi, noi non possiamo fare niente. Praticamente l'attività principale che si fa è, oltre a somministrare farmaci, controllare che non si suicidino, cosa che avviene in realtà, ai noi avviene troppo spesso, ma comunque i casi in cui non avviene perché qualcuno è intervenuto, c'è vigilanza e controllo, sono innumerevoli. Cioè c'è un livello enorme di sofferenza mentale, c'è un livello enorme di rischio anche per l'incolumità della persona. Noi vediamo la punta dell'iceberg, che sono quei molti, troppi suicidi, ma quella punta dell'iceberg nasconde un quadro ancora più allarmante. E un'altra questione è quella delle donne, perché anche lì rappresentano più o meno il 4% della popolazione carceraria a livello nazionale, quindi sono in realtà molto poche, ma anche loro vivono una discriminazione all'interno di una struttura che è concepita per essere maschile, no? Cioè l'istituto penitenziario è creato per gli uomini, anche per come è fatto. Sarà possibile, secondo lei, Alessio, raggiungere una parità di genere nei luoghi di detenzione e come? Ma allora, per certi aspetti la parità di genere c'è già, nel senso che le donne mettono in luce con grande evidenza un problema che poi è anche di tanti uomini. Quindi diciamo la parità c'è dal lato negativo in qualche modo. Generalmente il problema delle donne appunto è che sono poche in una comunità prevalentemente maschile e quindi si percepisce con chiarezza il fatto che tanti servizi, tante attività sono pensati per il target, per il detenuto tipo che non è donna ma è uomo. Però questo succede in tanti aspetti della vita penitenziaria, per cui poi sono tante le persone che non sono il detenuto tipo della vita penitenziaria, perché le detenuti sono come i cittadini liberi, sono tutti diversi l'uno dall'altro, come noi siamo tutti diversi l'uno dall'altro, no? E per il carcere è più semplice affrontare i bisogni di gruppi più numerosi, ma se tu non fai parte di quel gruppo più numeroso, il caso tipico è la scolarizzazione, no? Si sa che ci sono tanti detenuti che hanno problemi con l'italiano, stranieri, eccetera, allora è facile per loro organizzare un corso di alfabetizzazione, lo si garantisce quasi dappertutto, che ha esigenze un po' diverse, ma sono esigenze vere, come dire, non sono sfizi, però siccome sei un numero più ristretto, cioè rappresenti una percentuale più piccola di quella comunità, diventa più difficile garantire per te. Quindi diciamo questa marginalizzazione che con le donne è molto evidente, in realtà è un problema che c'è moltissimo in carcere, perché le persone sono diverse l'una dall'altra, quindi è chiaro che si organizzano i servizi che vanno bene per alcuni, ma certamente non andranno bene per altri, non possono andare bene per tutti. E questo è un problema che i detenuti, ma anche il personale, in qualche modo affronta con fatica tutti i giorni, ma è chiaro che è difficile trovare la quadratura. La quadratura la trovi come? Pigliando tutti i detenuti simili tra loro e spostandoli da una parte e creando questi grupponi omogenei. Però questo vuol dire non poter, per esempio, scontare la pena vicino casa, perché le persone che ti assomigliano sono tutte detenute in una struttura diversa, lontana da casa. Io sto parlando dei livelli di scolarizzazione, sto parlando anche della dimensione, diciamo, del lavoro, persone che hanno competenze che magari in alcune realtà riescono a spendere perché ci sono più opportunità di lavoro, più in altre realtà non riescono. Sto parlando dell'età, della condizione di salute, cioè le persone sono tutte diverse, hanno tutti bisogni diversi. E, ripeto, la questione delle donne lo mostra con più evidenza, ma poi lo ripropone, perché a loro volta quelle 15 detenute che magari sono nella sezione femminile del carcere maschile, a loro volta sono persone tutte diverse l'una dall'altra, con esigenze diverse l'una dall'altra, e quindi ancor più in quella piccola comunità poi si ripropone questo problema. È un dramma, penso, del carcere, un dramma ineludibile del carcere. È evidente che le vostre proposte, andando a agire su ogni singolo argomento che al momento è di emergenza, andrebbe poi a pareggiare tutte quelle che sono le discriminazioni, le tante e particolari discriminazioni all'interno di quella che è una città, alla fine, come le carceri. Sono tante cittadelle dove c'è tanto dentro, anche tante culture diverse. La ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Ricordo di iscriverci se avete delle domande e io le girerò poi a lei, redazione liberidentro@gmail.com, oppure anche al sito di Antigone. Può dare lei un indirizzo? Segreteria@antigone.it è il nostro, diciamo, primo contatto, e va bene per tutto. Arrivederci, grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Come ogni mercoledì noi continuiamo con le rubriche. Oggi parliamo di, abbiamo l'equipe sanitaria con una puntata che cura l'argomento Covid-19, sempre attuale purtroppo all'ordine del giorno, bisogna fare attenzione, ci diranno come. E noi vi ricordiamo di scriverci, redazioneliberidentro@gmail.com, oppure l'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2. 40-136 Bologna. Un saluto da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco al montaggio di queste puntate, e noi ci rivediamo domani. Ciao a tutti. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.